Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Un mio collega scorre gli annunci economici ed esordisce con: guarda, un annuncio di Le Ore. Cercano qualcuno che scriva del testo, pagano a cartella. Me lo ricordo bene, 10.000 lire a cartella. Mi chiamo Paola, vivo e lavoro a Milano e da 25 anni faccio la copywriter. In pubblicità significa occuparsi di comunicazione partendo dalla parola scritta. Perché raccontare storie, e lo è ancora di più, o lo è sempre stato, mica solo oggi, raccontare storia è da sempre un atto politico. Da sempre raccontare una storia è un modo per cercare di far vedere un altro pezzo di mondo, per far vedere che tu non sei il centro del mondo e tu semplicemente stai vivendo la tua vita, stai vivendo la tua storia, ma ce ne sono mille diverse dalla tua. Buongiorno a tutti, sono le 16:09 minuti in punto, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi siete qui. Oggi è un bel martedì 18 di febbraio 2014. È il compleanno non solo di Tiziano Bonini, che è di là dal vetro, ma soprattutto di Roberto Baggio. Oggi li separano 10 anni, più o meno, e qualche tocco di palla leggermente diverso, di destro in realtà, perché di sinistro poi... Baggio è destro o sinistro? Baggio è destro o sinistro? 349-238-6666. Chissà che secondo lavoro starà facendo Roberto Baggio. Roberto Baggio ha finito di fare il calciatore e ha fatto un po' l'allenatore. Ha lavorato nella federazione, non è neanche più nella federazione. Vabbè, insomma, si starà facendo bellamente i fatti suoi. La storia di oggi però non ha a che fare con Roberto Baggio. La storia di oggi di Paola racconta del secondo lavoro. Del secondo lavoro che fai perché dici, perché ne hai bisogno abitualmente, perché magari sei costretto a farlo, perché non ti bastano i soldi del primo, oppure perché, come era il suo caso, beh, perché arrotondare comunque non fa mai male, non fa mai male avere qualche soldo in più. Il secondo lavoro di cui parliamo oggi però non è un secondo lavoro qualunque, è un secondo lavoro che in qualche modo preferiresti non dire a tua mamma, ad esempio. Per capirci, una cosa di cui un pochettino ti vergogni, non perché è vergognoso, cioè non perché è imbarazzante in sé, ma perché, vabbè, anche se non lo dico a mia mamma che faccio quel secondo lavoro lì, non fa nulla. 349-238-6666 è il numero di sms per scrivere in diretta, o altrimenti il profilo Facebook del programma, che è Voi siete qui Radio 24, o il profilo Twitter, che è Voi siete qui R24, dove già ci hanno scritto, coi profili Twitter è difficile capire il nome perché Super Triglia, non so chi possa essere, sarà evidentemente il nickname di questa ragazza di cui c'è la foto sul profilo Twitter, che dice: lavorava in banca e scrivevo di nera e giudiziaria per un quotidiano. E poi ancora, Voi siete qui R24, ci scrive Michele: geometra tirocinante al mattino, portatore di bare ai funerali il pomeriggio. 349-238-6666, un doppio mestiere. Lo avete fatto magari anche solo per 2 settimane, per 3 giorni o per metà della vostra vita. Però era un lavoro che facevate in più e che raccontavate, sì, però magari non nei dettagli, insomma, magari, che so io, lavoravate in una bisca clandestina, non so se esistono ancora bische clandestine, però facevate una roba che un pochettino vi imbarazzava ed era un secondo lavoro. 349-238-6666. Paola faceva e fa la copywriter e ha provato a fare un'altra cosa. Di lavoro scrivo. Un mestiere che si chiama copywriter. Una volta, quando ho cominciato, si diceva pubblicità, ma al massimo advertising. Ovviamente segue delle regole, c'è uno studio, c'è un mestiere. Comunque si tratta di scrivere. All'epoca ero giovane, avevo cominciato a lavorare da poco e non dimostravo i miei 25 anni. Piccolina, rotondetta, con la faccia da ragazzina. Ricordo che era uno di quei giorni in cui in agenzia non c'era la solita frenesia. Anzi, sulla mia scrivania stava un Corriere della Sera mezzo sfogliato. Ho deciso di fare questo mestiere, cioè il copywriter, lavorare in pubblicità, perché come disse qualcuno di celebre, è sempre meglio che lavorare. A parte gli scherzi, è un mestiere che uno si sceglie seguendo una passione, un talento. Un mio collega scorre gli annunci economici ed esordisce con: guarda, un annuncio di Le Ore. Cercano qualcuno che scriva del testo, pagano a cartella. E me lo ricordo bene, 10.000 lire a cartella. Dunque, per cartella si intende una pagina intera, tutta scritta, tot righe, tot caratteri. Io lo sapevo che Le Ore era una rivista scollacciata, ma più che altro pop porno, insomma. Beata ingenuità, non avevo un'idea precisa del contenuto. Però ho fatto la donna di mondo e mi sono detta, perché no, uno straccio di curriculum ce l'ho e del denaro extra fa sempre comodo. Che ci vorrà riempire una cartella con un po' di porcherie. E quindi rispondo all'annuncio. Vengo contattata telefonicamente, prendo appuntamento. Appena fatto, mi viene qualche dubbio. Mi domando chi ci sarà in redazione. Ormai l'impegno è preso, la tentazione di un guadagno extra è fortissima. Mi presento in un anonimo palazzo commerciale in una zona semiperiferica di Milano. Suono il campanello. Ad aprirmi è una giovane ragazza vestita decentemente. Bene, nessuno con l'impermeabile. La ragazza mi accompagna da un tizio, 35 anni, barba, aspetto scazzato da intellettuale di sinistra. Ha con sé un po' di foto. Mi accompagna alla scrivania. Inizia a descrivermi il lavoro, si tratta di creare un testo per un servizio fotografico già fatto. Corroborarlo di una specie di sceneggiatura ad uso dei lettori e quindi non propriamente poetica. Mentre parla l'occhio continua a cadermi sulle foto sparpagliate sulla scrivania. Parti di corpo, il tutto senza Photoshop, e corpi fotografati senza faccia, e se c'era la faccia non sorrideva in camera. Il tutto con uno stile, a voler essere buoni, neorealista. Situazioni esplicite con storie riassumibili in due righe, tipo l'idraulico è arrivato mentre io ero in vestaglia e senza proferire parola lo abbiamo fatto chini sul lavello. Ovviamente le metafore non erano gradite, ovviamente era impossibile arricchire il plot, ovviamente era impossibile tergiversare. Il servizio fotografico esordiva con del sesso orale e da lì andava increscendo. Questo tizio era esattamente il contrario di quello che io mi aspettavo. Mi aspettavo un signore anzianotto, bavoso con l'impermeabile e invece mi ritrovo davanti il mio alter ego di un circolo intellettuale di sinistra, un vero sollievo. Mentre il tipo parlava mi sono immaginata china sul dizionario dei sinonimi e contrari a fare acrobazie tra tutti i verbi copulatori e tutte le definizioni di pisello, patate e zona limitrofe. Poi tutte le litanie sconce imparate alle medie, qualcosa di scatologico che non guasta mai, ma niente, non arrivavo a riempire mezza cartella. Quelle 10.000 lire mi sono sembrate pochissime e comunque inarrivabili. Sono uscita dalla redazione con le foto sotto braccio e l'accordo che avrei mandato loro una cartella di prova. Le foto hanno raggiunto il primo cestino della spazzatura che ho trovato. Le Ore ha dovuto rinunciare al mio contributo senza neanche un tentativo. E questo racconto è lungo più o meno una cartella. Io, per arrotondare, facevo le feste per i bambini. Che non è esattamente il mestiere che ha cercato di fare Paola per tirare su qualche soldo in più, ma è pur sempre un secondo lavoro. Io non facevo il copywriter come lei, facevo l'attore, questo significava sostanzialmente non lavorare, o lavorare molto poco e per periodi molto brevi e concentrati. A guardarlo da qui, in realtà si potrebbe dire che per campare facevo le feste per i bambini e per arrotondare facevo l'attore, ma sono sfumature poco interessanti. Arrivavo a casa delle famiglie il cui piccolino compiva 5, 6, 10 anni. Entravo in una stanza, mi cambiavo e ne uscivo vestito da clown, con una parrucca arancione e un soprabito giallo e rosso. Li facevo giocare un po' e poi facevo quei palloncini lunghi, quelli che manipolati diventano animali, fiori, spade. Per avere 19 anni in Italia negli anni 90 guadagnavo una cifra discreta che mi permetteva anche di togliermi qualche piccolo sfizio. Era tutto concentrato in 3 ore di festa attorniato da 20 bambini che urlavano per avere per primi il loro maledetto palloncino. Non mi piacevano i bambini, ma ripeto, avevo 19 anni e per me erano solo un modo veloce per fare un po' di soldi. Andai avanti per 4-5 anni, quasi tutti i fine settimana, a fare quelle feste. Coi palloncini ero un drago, avevo anche imparato un paio di trucchi non male di micromagia, che ora ovviamente non so più che cosa fare. Ogni volta quel lavoro però lo odiavo sempre di più. vestirmi come un cretino e dare retta a quei bambini che per lo più mi urlavano contro che quel palloncino faceva schifo e che era meglio quello che avevo appena fatto all'altro bambino. Insomma, la cosa iniziava a farsi fastidiosa, considerato soprattutto che con la presunzione dei 20 anni io mi sentivo un attore, non un animatore di feste infantili, e quindi era chiaro che il mio talento fosse sprecato lì, in quel posto, con quei boccia. Io sognavo Shakespeare e mi trovavo a fare giocare dei bambini a fazzoletto. Quei soldi però mi facevano molto comodo, quindi non mollavo. Poi, un pomeriggio arrivai ad una festa in un posto remoto tra le colline del Bresciano. La mamma del bambino festeggiato aveva affittato la country house di un club del golf. La sala era piena di giochi che avrebbero interessato perfino un adulto. Castelli di plastica grandi quanto un fuoristrada, poi c'erano scivoli, porte per giocare a calcio, palloni, palloncini, festoni. Nessun bambino, ovviamente, era interessato a un deficiente vestito da clown. E quindi dovetti sudarmi moltissimo la paga di quella giornata, cercando in tutti i modi di attirare l'attenzione. Fu un pomeriggio infinito, che culminò quando una bambina vestita da fatina e grassa come un vitello venne da me e mi disse: adesso mi fai un cagnolino decente, perché quello che mi hai fatto fa schifo. Io la guardai attonito e poi le dissi che c'erano prima 3 bambini in fila che stavano aspettando e che poi avrei rifatto anche il suo cagnolino. Lei, come un piccolo mostro uscito dalla peggiore fiaba di Cenerentola, mi disse: se non lo fai subito, vado dalla mamma e le dico che non fai quello che ti dico. Vacci, le dissi. Vai dalla mamma, diglielo, vediamo quello che ti risponde. E io giuro che non avevo nessun dubbio che la mamma le avrebbe detto: senti, cicciona di una figlia che ho fatto, lascia in pace quel poveraccio e fagli finire i palloncini per gli altri e poi fa anche il tuo maledetto cagnolino. Giuro, ero convinto, magari non proprio così, però ero convinto che avrebbe dato ragione a me. Invece, dopo poco, la bambina cattiva si materializzò davanti a me con la mamma, che era una signora magrissima coi capelli corti, che mi disse che se non avessi fatto il palloncino a sua figlia si sarebbe lamentata con la padrona di casa. Fece ancora qualche festa dopo quella, ma avevo deciso di smettere. I secondi lavori sono secondi mica per niente. Un cappello strepitoso, Paola, nella foto che ci ha mandato e che trovate sul nostro sito radio24.it, alla pagina di Voi Siete Qui. È chiaramente in posa, nel senso che si aspetta la fotografia, ed è elegantissima. Non so se è una festa o comunque qualcosa del genere. Gli occhiali con la montatura scura, la faccia molto sorridente e, ripeto, questo cappello con una gala, che non so se si dica anche in italiano nel mio paese, una gala in testa abbastanza impressionante. Pronto, Paola? Buongiorno. Come stai? Bene. Senti, visto che il tuo racconto ha aperto un vaso di Pandora, io, prima di fare 4 chiacchiere con te, vorrei leggerti alcuni dei messaggi che sono arrivati. Taixo, che si firma Taixo probabilmente per difendersi, dice: sono un insegnante in palestra di giorno e costruisco e noleggio attrezzi sadomaso come secondo lavoro. Questo è uno. Poi ce n'è un altro che non si firma, dice: sono un agente di commercio, facevo striptease in discoteca la notte, finché sono finito sul giornale e lo ha visto mia suocera. Erano metà degli anni 80. Ecco, questo più o meno rispetto a te, che ci volevi scrivere per le ore e poi non hai fatto, insomma, era niente praticamente. Assolutamente, perché poi è sempre, no, un po' come il ginecologo che si diverte, lavora dove gli altri si divertono, invece è un duro lavoro. Che insomma gli altri lo dicono, poi immagino che, non so, non ho mai parlato proprio apertamente con un ginecologo di questo, però diventa un lavoro, no? Come dico. Ogni giorno sbuffa, cosa mi tocca andare a fare, ecco così. Paola, raccontaci un po' a che pubblicità stai lavorando adesso, in questa mattina, che cosa stavi immaginando di creativo per far vendere qualcosa? Ma guarda, proprio in questo momento sì, stiamo facendo una cosa per un lancio di un brand di moda all'estero, quindi una gara, e quindi tutto super top secret, non si può dire okay. Niente. Una gara nel senso che partecipate insieme ad altre agenzie? Sì, infatti è una cosa di genere, per cui questi sono un po' i temi, ma ovviamente è tutto molto più, cioè in queste cose fa ridere, perché quando si è giovani, come dicevi tu, ci si prende molto più sul serio E quindi ci si resta un po' impalati, irrigiditi di fronte a una cosa un po' divertente come mi era capitata in quel caso, e invece poi si affrontano i temi più grandi e più corposi con molta più leggerezza. Ma quel tizio, questo tizio con la barba che tu definisci intellettuale di sinistra, e che cos'era? Era il caporedattore delle Ore? Ma sì, perché poi alla fine ovviamente lui che vedeva quello tutto il giorno, se fossero stati delle viti o dei tondini non avrebbe studiato nulla, ero io che continuavo a guardare quelle viti incredula che avrei dovuto parlarne per ore. Senti, e mi fermavo a tutti i sinonimi di Piselli. Poi hai mai fatto qualche altro lavoro, qualche altro secondo lavoro, oppure sei rimasta bella secca in Ma pubblicità? No, poi in realtà la cosa più divertente è che poi il mondo del porno mi ha perseguitato, nel senso che poi ho fatto una delle mie campagne, le cose per cui mi conoscono di più ancora mi dicono: ah, ma tu sei quella che ha fatto proprio delle campagne per un video shop, sì, che sono poi diventate virali, hanno girato, produzione fatta veramente, non dico in casa ma quasi, però poi basta trovare un punto di vista che invece fa ridere, non era porno, per rendere tutto questo molto... Ma no, scusami, non ci vuoi dire qualche dettaglio? Cosa succedeva in questo video, per capire? Magari l'abbiamo visto, poi ma non... Ma l'avete visto, adesso non voglio essere presuntuosa, ma è un suggeritore che suggerisce l'audio di un porno, e ovviamente sono solo... Gemiti, vedi solo, okay, il copo praticamente. Senti, invece una campagna di cui vai fiera, che puoi raccontare a tua mamma, invece quale sarebbe? No, questa qui l'ho raccontata perché, okay, mi ha vinto dei premi, per cui poi mi seccava dire anche far finta. Così come un'altra era un titolo sempre per questo cliente che era: venite, vedrete. Va bene, niente. Paola, ti sei sembri specializzata in quella roba lì. Sì, però... sì, dopo mi hai dato, è stata tracciata la strada. Sì, no, poi abbiamo fatto cose molto belle. Anche... Mi dici, e poi ti devo salutare, Paola. Sì. Mi dici qual è la cosa più bella di fare il pubblicitario? Che lavori su qualcosa di diverso, anche se quello che dico io adesso sembrerebbe smentirlo. E invece... In realtà ogni volta hai un prodotto diverso e quindi puoi veramente immaginarti un mondo di riferimento completamente diverso, cambia. Non è diverso, mai sempre solito. Lo stesso prodotto. Chiaro. Paola, ti ringrazio molto, in bocca al lupo per tutto. Grazie, Matteo. Ciao, grazie. A presto. Ciao, siamo grazie. Ciao. Pizzaiolo è web designer a Dublino, mi scrivono. 349-238-6666. Chiudiamo ricordando che Roberto Baggio era destro e che oggi, oltre al compleanno di Tiziano e di Roberto Baggio, era anche il compleanno di Fabrizio De André. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata, che sono ovviamente Tiziano Bonini, Margherita Ina e Paolino Corleoni. Ricordo di scaricare i podcast del programma oppure di ascoltarci in diretta o la mattina alle 5:15, me l'ho scritto per ricordare che è esattamente tra le 5:15 e le 5:20, in differita, ovviamente. Voi siete qui su Radio 24. Grazie soprattutto a Paola, la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Sono Giorgio, abito a Milano e la storia di domani è la mia e parla di una tempesta in Atlantico di un po' di anni fa. Questa è la mia storia e io sono qui.